9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, ed è con 3 minuti e mezzo puntuali di ritardo che cominciamo e che noi concluderemo anche con lo stesso ritardo, così qualcuno si sveglia alla nostra trasmissione di oggi. Allora, mercoledì 26 maggio, i dettagli della manovra ve li risparmio perché li trovate tutti sui quotidiani. Noi cerchiamo di fare una trasmissione con un passo un pochino rapido, con approfittando al massimo degli ospiti che abbiamo collegati e naturalmente delle vostre telefonate che come ieri più di ieri spero vengano numerose, a giudicare dagli sms che già vengono smitragliati. Vi vedo caldi e alcuni già iniziano a dire che mi devo vergognare perché i miei amici starebbero facendo quello che faceva Visco. Non so chi siano i miei amici, io non mi devo vergognare, faccio l'osservatore. Se qualcuno si fosse perso questa cosa, io non ho cambiato idea invece su tasse, la diminuzione delle tasse non c'è, credo che sia un grave errore, perché stupitevi, io avrei tagliato i meccanismi strutturali della spesa, qua ci sono tanti tagli, di tagli strutturali non ce n'è abbastanza, anzi quasi per niente, tranne i 10 miliardi che vanno sugli enti locali, di questo parleremo. E anzi, cominciamo a parlare esattamente da questo punto di vista con chi può comunque meglio di me darci un quadro generale del significato e dei pesi e delle voci di questa manovra. Sto parlando di Dino Pesole, giornalista e editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno Pesole. Buongiorno. Sento un po' lontano, non so da dove siamo collegati, ma dovessi dire in un minuto il significato complessivo di questa manovra alle luci delle prime reazioni, tanto dai ministeriali quanto della reazione della CGIL, che è la più decisa nel dire no, la tua impressione è quella di un intervento destinato comunque a rimanere nella storia come le più importanti manovre della nostra Repubblica. L'entità è, secondo i conti che mi facevo ieri con malizia dell'Istat, la terza dopo quella di Amato, Ciampi, poi verrebbe questa come entità di tagli nella spesa pubblica. Ma è davvero una manovra che resta come una pietra miliare, oppure secondo te le prime reazioni ci indicano che è un po' fatta dovendo metter mano laddove si può e nel desiderio di evitare la reazione negativa, a cominciare dallo stesso Berlusconi? Tutti i quotidiani oggi riportano articoli dell'ora che ha preso il Consiglio dei Ministri ieri tra Berlusconi e Tremonti. Che impressioni hai, Pesole? Complessivamente la tua impressione sulla manovra? Allora, questa è una manovra che è una manovra forte, importante dal punto di vista dei numeri che mette in gioco, una manovra anche dura. Poi si può ragionare, se vuoi lo faremo, nel merito delle misure che sono state adottate. Ricordo però che questa è, ed è importante dirlo subito, è una manovra che in qualche modo è imposta al nostro paese, cioè imposta dall'Europa, perché il Consiglio Ecofin, ancor prima che la crisi greca divampasse, aveva indicato per il nostro paese la necessità di fare una correzione biennale esattamente pari a quella che ha fatto il governo. L'altro elemento fondamentale e dare un segnale ai mercati, quindi è una manovra che in qualche modo punta a giocare d'anticipo. Nel merito è evidente che qui si riscontra esattamente, diciamo, il problema a cui facevi cenno te, cioè il problema di riuscire o non riuscire a fare una manovra effettivamente incisiva sul fronte della spesa pubblica che abbia un profilo strutturale. Su questo ci sono, secondo me, alla luce delle primissime indicazioni, luci e ombre nella manovra, cioè, ci sono dei segnali importanti, ma il rischio è che in effetti poi si possa anche avere un effetto recessivo da parte di una manovra che comunque interviene sui saldi, interviene sulla spesa pubblica, riduce nominalmente i saldi della spesa pubblica in modo drastico e poi fa un'operazione molto pesante sugli enti locali. Questo comunque è un argomento che se poi tratteremo. Esatto, e cominciamo. Anzi, proprio ieri abbiamo visto con il vicepresidente dell'ANCI la prima reazione dei comuni. I comuni hanno a carico una riduzione pari a circa 2,4 miliardi negli anni a venire, non solo l'anno prossimo. Abbiamo visto ieri in cambio uno sblocco intorno ai 500 milioni dei fondi 2010, mentre ancora personalmente a me non è chiaro in merito al patto di stabilità interna dei comuni quale sia la misura della finanziaria, se ve n'è una. Per le regioni, poiché abbiamo collegato con noi attualmente il presidente della conferenza delle regioni, il presidente Emilia Romagna, Vasco Errani. Buongiorno Errani. Buongiorno. Buongiorno. È collegato? Sì, la saluto. Si dicevo, per le regioni siamo a un importo che è l'importo tra i più considerevoli dell'intera manovra, perché insomma 6 miliardi poi bisogna aggiungerci 1,5 miliardi per la riduzione dei trasferimenti alle regioni a statuto speciale. Oggi trovate sui quotidiani reazioni diciamo molto preoccupate, alcune allarmate, altre anzi molto dure, dirigetto da parte del Presidente delle Regioni. Vi segnalo non solo quello di Nichi Vendola, che ieri è stato il primo a dire la più grande opera di macelleria sociale nella storia italiana, ma Formigoni per esempio sulla stampa dice: colpiti i servizi sociali sarà a rischio anche il federalismo fiscale. Presidente Errani, la prima impressione vostra, sentita la manovra e i suoi importi, qual è? Ma intanto voglio dire una cosa in premessa, la manovra è necessaria e noi siamo pronti, come abbiamo detto e come abbiamo fatto in questi anni, a fare la nostra parte. Ma come ha detto lei, su una manovra 2011 12 miliardi, 2012 12 miliardi, il peso sulle regioni va oltre sostanzialmente il 50% di questa manovra. E questo è un dato obiettivamente non sostenibile, peraltro non equilibrato rispetto agli altri comparti della Repubblica di spesa, lo Stato e più complessivamente tutto il sistema. La cosa peraltro che ci rende tutto più difficile è che noi discutiamo, adesso leggeremo il provvedimento, ma abbiamo avuto anticipazioni molto generali da parte del governo, abbiamo letto le anticipazioni diciamo sulla stampa, ma non abbiamo avuto i termini di una discussione di merito con il governo: qual è il quadro finanziario, che cosa facciamo dal punto di vista strutturale, quali sono le scelte di priorità, chi colpiamo, chi sono i primi a dover fare sacrifici. Benissimo la politica, ma bene anche, io credo, chi ha di più. Il risultato invece è che mi pare di intravedere una manovra dove le politiche attive non ci sono. Sto parlando di politiche per la crescita, che è il grande problema dell'Europa, ma ancor di più del nostro paese. E tagli, diciamo così, un po' diciamo non equilibrati. E il problema è questo. Noi discuteremo domani in conferenza dei presidenti, ma chiederemo, credo, un incontro e di fare un lavoro col governo per capire bene quali sono le scelte prioritarie, perché bisognerà spiegarlo anche ai cittadini che in merito alle difficoltà occorre fare degli sacrifici, ok, ma come e con quale priorità? Questo è quello che manca. Presidente, rispetto all'instradamento del dibattito per i decreti attuativi della riforma del federalismo, questa manovra, nel suo giudizio, sentirà meglio i colleghi delle altre regioni, ma che impatto ha, che significato ha che quel processo continua parallelo con gli stessi tempi, che inevitabilmente nel governo e nella maggioranza si pensa che poi questa manovra da parte vostra non avrà una reazione rispetto a quel tavolo? La delega sul federalismo fiscale, lei la conosce bene, credo, prevede due elementi. Uno, i cosiddetti servizi essenziali, a partire dalla sanità e assistenza, che debbono essere garantiti al 100% attraverso questi standard. Poi, invece, una perequazione forte in relazione alla spesa storica per il resto delle spese regionali. Se oggi noi andiamo ad un taglio sostanzialmente di tutte le competenze e di tutti i trasferimenti relativi a quella che viene chiamato la Bassanini, no? Le competenze trasferite alle regioni, ad un taglio appunto di circa 5 miliardi di euro quest'anno e 5 miliardi di euro quest'altro anno, io non riesco a capire la parte che non è, diciamo, coperta al 100%, come viene distribuita? Non c'è più. A quel punto il federalismo che cos'è? Il federalismo fiscale? Pongo un problema, credo, vero, serio. perché una cosa è la propaganda, una cosa è la sostanza. Che cosa rimane? Quali sono le politiche di ridistribuzione rispetto appunto alla responsabilità dei territori e all'autogoverno? Questo è il punto. Io faccio presente che il comparto delle regioni a statuto ordinario, senza la sanità, complessivamente vale 19,7 miliardi di euro. So se mi spiego. Sì, sì, certamente. No, se ne tagliamo 5, più 5, dove andiamo a finire? Quindi mi pare di capire, in conclusione Presidente, che anche su, non solo sulla composizione, e proprio sull'ammontare di questa parte che si riferisce direttamente a voi, guardi, della manovra, che c'è un dissenso molto radicale. Guardi, è sull'ammontare, sulla qualità delle scelte, perché non capiamo, io non capisco le priorità, mi leggerò con grande attenzione il provvedimento oggi, se è già in rete, come spero, ma non credo. No, perché sa che ieri è stato approvato in Consiglio dei Ministri con la formula salvo intese, perché stanno riscrivendo pezzi. Sì, ma vede Zanino, noi abbiamo un problema, in questo paese c'è un problema. Cioè, io mi chiedo, è giusto che tutti facciamo uno sforzo, ma è difficile farlo nel momento in cui tanti protagonisti non conoscono nemmeno i numeri, perché noi non conosciamo i numeri. Noi non conosciamo il quadro finanziario della. Do ragione al Presidente Errani e credo che, come oramai abbiamo capito, la prima cosa che spiega questa mancanza di numeri è che il Ministro dell'Economia ha delle resistenze a darli innanzitutto ai suoi colleghi che ieri hanno provato in Consiglio dei Ministri, a detta di alcuni componenti del Governo, senza conoscerli troppo, perché altrimenti non li si approva, dice il Ministro dell'Economia, che ha faticato molto anche all'inizio del Consiglio, ripeto, a tenere a bada il Presidente del Consiglio, che diceva, per esempio, sulla tracciabilità, sulla cui soglia di cifra ancora sono in forma di coordinamento dopo il Consiglio dei Ministri, Berlusconi diceva: questo non è il mio provvedimento, non ci voglio mettere la faccia, queste sono le cose di Visco. Se tu dici 3.000 o 5.000 euro rispetto a 12.500, noi al nostro popolo elettorale abbiamo promesso il contrario. Alcuni ascoltatori, cominciamo per esempio con Giuseppe D'Ascoli. Che ne pensa Giuseppe di questa manovra, da quello che ha capito fino a questo momento? Buongiorno Oscar, a lei e ai radioascoltatori. Senta, io volevo fare una piccola premessa, poi entro più nel merito. Noi, no, guardi, lei ha pochi secondi, quindi non premessa, vada nel merito. Ho ascoltato Berlusconi 15 anni fa, già c'era il sistema pensionistico a regime con circa 20 miliardi di risparmio. La sinistra e i sindacati si sono messi contro. 5 anni fa Scalone, Maroni e altre cose che si dovevano fare, i sindacati e la sinistra si sono messi contro. Vorrebbero fare le riforme, ma sono quelli che invece le ostacolano. Per quanto riguarda i tagli attuali sono completamente d'accordo. Volevo solo far presente che oltre agli stipendi dei nostri signori parlamentari bisognerebbe mandarli in pensione con 35 anni di contributi, come vanno il 99,99% degli italiani, dare a loro dopo i 35 anni una sola pensione. Grazie Giuseppe. Giuseppe ci ha ricordato che insomma, se avessimo fatto riforme strutturali sulle pensioni anni fa, e ricordate che su questo ci fu una delle ragioni per cui Berlusconi poi andò a casa, poi si passò alla Dini, alla riforma Dini, che è quella che segna con però 18 anni di attuazione, un regime di attuazione troppo lungo e transizione troppo lungo, il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Ora vediamo con un altro osservatore molto qualificato, con Claudio Suciliotti, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, un rapido esame di una parte della manovra che a propria volta molto importante, che molto fa discutere innanzitutto all'interno della maggioranza, Premier e Ministro, quella relativa ai provvedimenti appunto contro l'evasione fiscale. Ieri abbiamo già messo in luce la parte relativa all'impegno e al coinvolgimento dei comuni fino al 33% delle risorse ricavate per l'accatastamento di un paio di milioni, si dice, di unità immobiliari estranee attualmente all'accatastamento o comunque con redditi catastali molto diversi da quelli a cui risultano al fisco e al catasto, ma la parte relativa in realtà al potenziamento di tutta una serie di provvedimenti in materia di lotta all'evasione e all'elusione fiscale è molto forte per le società estrovestite, per chi ha finanza all'estero all'interno di un perimetro di uno stesso gruppo, per tutto ciò che riguarda la tracciabilità, lo abbiamo detto, insomma un fortissimo serie di impegni nuovi che fanno dire oggi a Vincenzo Visco, per esempio, sull'Unità, mi ridevano dietro, ma questo non basta, e comunque è solo l'inizio del mio riscatto, visto che alla fine su queste orme devono venire. Allora, Presidente Siciliotti, qual è il suo giudizio anche qui rispetto a quello che conosce della manovra e tutto quello che riguarda la parte regolatoria del rapporto tra contribuente, sia persona fisica che imprese, e cittadino dal punto di vista fiscale? Che impressione ha? Grazie, intanto buongiorno a lei e agli ascoltatori. Io penso che la prima considerazione che si deve fare è che questo non può che essere l'inizio di un percorso. Io penso che questa manovra deve tracciare la linea dei prossimi anni e non deve essere un episodio isolato, altrimenti credo che serva veramente a poco. Noi ci dobbiamo muovere su due direttrici di fondo: taglia la spesa, perché questa cresce in maniera incessante da tutti i punti di vista, in termini reali, in termini pro capite, più dell'inflazione, più al netto degli interessi passivi, considerando l'aumento del PIL, considerando l'aumento delle entrate, da tutti i punti di vista cresce in maniera inarrestabile e fino adesso non l'ha arrestata nessuno, e quindi è sicuro che bisogna mettervi mano. D'altro canto io capisco perfettamente che un paese che ha oltre 100 miliardi di evasione fiscale e appare essere il secondo al mondo dopo la Grecia, e penso che solo nominare la Grecia di questi tempi tremino i polsi, abbia il dovere di andare a cacciare anche questa. Io penso che la lotta all'evasione fiscale si debba fare da un lato, l'abbiamo detto, ma l'abbiamo detto noi, qualcuno anche ci ha sorriso sopra, potenziando il redditometro, l'abbiamo detto 2 anni e mezzo fa, quindi non è che siamo nuovi, e quindi accogliamo con favore il fatto che oggi si ristudi le norme per calibrare i redditi dichiarati rispetto alle manifestazioni di ricchezza dimostrate dai singoli contribuenti, e dall'altro canto una lotta senza fine ai paradisi fiscali e finanziari. Da questo punto di vista io non so se basteranno 24 miliardi, è bene che i cittadini lo sappiano, perché oggi come oggi, con un deficit 2009 di circa 80 miliardi, con un PIL di 1520 miliardi, ce ne vorrebbero almeno 35 per andare sotto il 3%, e quindi probabilmente anche da questo punto di vista si tratta solo dell'inizio. Per quanto riguarda le misure principali, tracciabilità, fatture elettroniche, Io in attesa dei dettagli non ho obiezioni, credo che ci dobbiamo assoggettare tutti. Due sollecitazioni: che siano misure non discriminatorie, che non riguardino solo alcuni. Lei ha citato Visco, ma Visco le faceva, come dire, additando alla pubblica opinione alcuni, cioè gli autonomi e spesso i professionisti come i soggetti. No, ma lo ribadisce oggi nel suo intervento dicendo che la lotta all'evasione non si può fare con il consenso degli evasori. Lo rifà questo errore? Sì, io non mi sento evasore, io mi sento cittadino di questo paese, si sentono così i 2 milioni di professionisti. Se la tracciabilità vale per tutti, credo che sia una sfida da accettare. Se viene applicata ad alcuni è una misura odiosa che crea divisione sociale. E poi un'altra cosa, un'altra sollecitazione: nel momento in cui imponiamo degli adempimenti, che questi adempimenti non siano inutilmente invasivi, perché le faccio un esempio molto semplice, banale, non riguarda la manovra, ma credo che sia esemplificativo. In tutti i paesi esistono i modelli Intrastat, ma solo i nostri chiedono una tonnellata di notizie, che forse non vengono neanche processate dall'amministrazione finanziaria. Quindi stiamo attenti a chiedere quello che serve e non chiediamo inutilmente quello che non serve a nessuno e ingolfa soltanto il lavoro degli operatori. Grazie al Presidente Siciliotti. Naturalmente l'esame più dettagliato delle norme di potenziamento del redditometro e anche in merito a questa delicata questione, condono sì, condono no, per la regolarizzazione degli immobili che sfuggono al fisco, da vedere solo una volta che avremo le misure per leggere dettagliatamente. 9.34, 10 secondi. Tra le novità inattese dell'ultimo momento in Consiglio dei Ministri, la norma che chi dice 10, chi dice 12, chi dice 13 province le abolisce. Sono queste province che sono un po' ritagliate col bilancino perché sono con la popolazione inferiore a 220.000 abitanti, non devono essere le regioni a statuto speciale, non devono avere un confine con uno stato straniero, e quindi si inizia a pensare, oltre a Isernia, forse Vercelli, quale altre, Rieti, sono soprattutto nel centro e nel sud, però insomma un inizio d'Italia, le province obiettivamente c'è. Poi ci sono questi 72 enti inutili che vengono chiusi, alcuni dei quali naturalmente vedono immediatamente la protesta dei loro dipendenti. Cosa significa, alcuni mi chiedono, per i dipendenti di enti inutili chiusi che vengono conferiti ad altri rami della pubblica amministrazione, ma coloro che hanno contratti a tempo parziale, i contratti decadono arrivati al termine, quindi non vengono rinnovati. Effettivamente ci sono alcuni di questi enti, trovate la lista sui quotidiani, dal Comitato Nazionale per la celebrazione del millenario della Basilica di Torcello, gli esempi come sempre della fantasia nelle istituzioni di qualche collegio pubblico con tanto legge sono tanti, anche se io per esempio faccio un'eccezione, io spezzo una lancia a favore dell'ISAE, l'Istituto di Studi Analisi Economici, che era l'unico rimasto tra i vari centri studi dei vecchi ministeri, bilancio, tesoro e così via, che aveva un velo di autonomia rispetto al governo, e io credo che avere ricercatori economici in un istituto pubblico con uno scudo di autonomia rispetto al governo sia sempre qualcosa da preservare. L'ISAE viene invece conferito al Ministero del Tesoro. Sentiamo come la pensate alcuni di voi, poi torniamo con Dino Pesole che pazientemente ci sta per un solo intervento fino a questo momento accompagnando una trasmissione. Cominciamo con Luigi da Pisa. Come la pensa Luigi? Io la penso che questa manovra è la negazione della campagna elettorale di questo governo, che ha fatto tutto per negare quello che aveva fatto il governo precedente. Poi voi siete la radio della Confindustria e dell'artigianato, io pubblico impiegato con 22.000 euro di reddito mi devo sentire ricco nei confronti dell'80% dei piccoli autonomi. Mi dite come mai si colpisce poi quelli che veramente pagano le tasse e non si va a vedere come un piccolo autonomo non riesce a fare quello che riesce a fare l'ultimo anello del pubblico impiego. Tutto lì, grazie. Prego Luigi da Pisa. Vincenzo da Frosinone, lei? Buongiorno. Dica. Senti, io volevo dire una cosa, Prodi nel 98 ha fatto la riforma sugli... della pensione per quanto riguarda gli ammalati, l'unica fatta sulla pelle degli ammalati, perché per i militari fece la revisione delle pensioni. Tutto qua, strutturalmente è stato questo l'unico modo per recuperare i soldi. Grazie. Ma Vincenzo, io vi invito, cari radioascoltatori, quando vi vedo di fronte a una richiesta, che ne pensate di questa manovra? 8 volte su 10 voi cominciate a dire colpa di Berlusconi che non ha fatto questo anni fa, oppure colpa di Prodi che non ha fatto questo o ha fatto quest'altro anni fa. Io capisco l'impostazione tribale, e lo dico con rispetto, dico il tasso di adesione è molto elevato, ecco, a questa impostazione per cui, divisi in due, prima di giudicare il merito di quello che c'è oggi sul tavolo, si inizia a dire tu, i tuoi figli, le tue 7 generazioni precedenti, tutti quelli con il colore dei tuoi occhi, tutti quelli che hanno votato il tuo partito. A me non piace molto, io ho l'obbligo di dirvelo, poi potete pensare che sono un po' imbecille io, però io stiamo chiedendo, rispetto a quel che avete capito della manovra di oggi, nei mercati di questi mesi da gennaio avanti, ne abbiamo parlato decine di volte, rispetto al fatto che ieri il presidente francese annuncia che entro 5 anni devono entrarci nelle casse pubbliche 100 miliardi di euro in più tra minori spese e maggiori tasse, che il governo tedesco, paese leader, virtuoso, sta mettendo mano a una manovra per almeno 10 miliardi di correzione strutturale anno per anno del deficit pubblico, avendo sospeso per 2 anni i promessi tagli alle tasse, che in Gran Bretagna stanno litigando per molto meno che qua, perché non riescono a fare una manovra di 6 o 6,5 miliardi di pounds, di sterline, il nuovo governo, quello tra Tories e liberal democratici. Ecco, il quadro Spagna e Portogallo ne abbiamo già parlato, il quadro europeo è questo, le misure sono quelle anticipate, però parliamo di questo, cari ascoltatori. Giulio dalla provincia di Treviso, lei che ne pensa? Io? Sì. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Io volevo dirvi che praticamente se, come veniva detto nella trasmissione da qualche parlamentare, il risparmio del 10% sui loro stipendi è poco, allora a questo punto qua dimezziamo il numero di parlamentari, buttiamole fuori metà e così si fa un risparmio più interessante. Poi volevo dirle, per quanto riguarda le pensioni di invalidità, si va a cercare lì a scovare quelli che ingiustamente prendono la pensione, ed è giusto, però quanti parlamentari, quanti dipendenti pubblici prendono 2-3 pensioni avvalendosi di leggi, leggine fatte ad hoc e questo e quest'altro? mandiamoli a casa questi parlamentari che hanno 3-4 vitalizi, durano tutta una vita finché morte non li porti via. Poi grazie Giulio, grazie Giulio, grazie Giulio. Devo dirle che si è discusso anche di questo Consiglio dei Ministri, come sa, poi in merito agli stipendi e all'elargizione a diverso titolo dei parlamentari, decidono i parlamentari nei due rami del Parlamento, quindi il governo può dare un'indicazione ma può far poco. Stefano da Reggio Emilia ancora, prego, in fretta, Stefano. Buongiorno, volevo sapere da lei, che è una persona intellettualmente onesta, se c'è un qualche provvedimento, in qualche misura, in questo provvedimento che vada a toccare i redditi più alti. Guardi, per la parte del... 200.000 euro in poi, ad esempio. E poi volevo sapere... però voglio dire, ripeto, le rispondo al volo per far capire chi è a casa. Per la parte del lavoro pubblico abbiamo visto il dibattito che ha fatto per chi sta sopra gli 80.000 euro e con tanti che già hanno preannunciato sui quotidiani il ricorso di fronte al fatto che c'è una diminuzione netta del prelievo, si chiami contributo straordinario di solidarietà o come altro. La parte di appesantimento della lotta all'evasione fiscale è molto forte e, riguarda sia i redditi di persone fisiche ma soprattutto quelli delle persone giuridiche e delle aziende. Quindi lì io devo dire che c'è una batteria di cose abbastanza impressionante rispetto a quello che si è visto in questi anni, che aveva spesso fatto credere l'opposizione all'abbandono della lotta all'evasione. Poi le cifre della discussione, l'abbiamo detto mille volte, non lo provavano, però queste cose ci sono. Ancora Angelo da Milano, prego Angelo. Sì, Angelo collegato? Dica. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Diciamo che ci sono due cose che così ancora non tanto chiare. Il discorso della riduzione di spesa degli enti locali, che è una fetta considerevole. Ecco, qui non si capisce se è una riduzione dei costi o di minori servizi che verranno erogati ai cittadini, o comunque entrambe le cose, perché se si riducono... Perdoni, questo dipenderà da come le giunte e i consigli regionali decideranno di spalmare i minori trasferimenti che riceveranno. È prevedibile che i politici, quando vedono i trasferimenti meno, dicano sempre ai cittadini che devono tagliare i servizi piuttosto che i loro costi. Lo sappiamo, negli ultimi 9 anni la spesa corrente locale è aumentata, negli ultimi 9 anni più 2 di crisi, quindi sono 11, sono onesto, è aumentata del 78% nel nostro paese. Tutti i servizi in più, ve lo chiedo voi che siete in ascolto, tutti i servizi in più di elevata qualità, è questo quello che vi danno le regioni? Abbiamo distinto tante volte le regioni che danno servizi di qualità più elevata con costi più contenuti, però i politici che oggi vi diranno che sono costretti a tagliare solo servizi reali, anche con impatti molto rilevanti, abbiamo sentito Vasco Errani, secondo me tendono a raccontare un pochino di palle. Ora sentiamo ancora un ultimo ascoltatore per il momento e poi torniamo agli ospiti. Enrico da Alessandria, prego Enrico. Sì, buongiorno dottor Zanino, la ringrazio comunque della chiamata e delle sue trasmissioni che sono sempre molto interessanti. Sono telegrafico, io di questa manovra ne ho un giudizio positivo, anche se speravo in qualcosa di veramente molto più incisivo anche nel tempo. E quello che mi preoccupa di più è la tracciabilità degli assegni, vero sia di aver fatto il visco 2. E le dico perché, siccome diciamo per esperienza personale, quando dopo gli effetti visco nessuno ha più voluto soldi in assegno eccetera, quindi pagava i contanti, no? Quindi questo è il sistema, ma ecco, non vedo perché tutte le volte che si parla di fisco in Italia diventa una cosa repressiva. Non si può utilizzare un sistema all'americana dove c'è il contrasto di interesse, dove praticamente tutto ciò che è fatturato viene scaricato. Ok, io ho finito. Allora, mille volte la risposta rapida a questo, mille volte lo abbiamo detto. Questa roba che mi ficcano in testa, che per tutti è possibile il contrasto di interessi e se non ve lo danno è perché vi vogliono truffare e non fare la lotta all'evasione, è semplicemente falsa. È falsa perché dal punto di vista ordinamentale ha senso per l'ordinamento consentire detrazione o deduzione a seconda della vostra impostazione ordinamentale. È noto che la sinistra preferisce la detrazione, a destra le deduzioni, per ragioni che adesso non c'è tempo di approfondire, per due ordini di ragioni. Primo, non per tutte le spese sostenute in consumi, se fate lavori a casa è un consumo, ma invece per quelle spese che contribuiscono a creare valore aggiunto, a dare produzione, valore aggiunto. Quindi questo spiega perché per tante cose che la gente dice io voglio il contrasto di interessi, non ha senso. La seconda ragione per cui un ordinamento può e dà di solito incentivi con deduzione e detrazione è per spese, in quel caso sì di consumo, che sono in realtà spese di investimento, cioè servono a dare segnali di lungo periodo. Per esempio sono queste le detrazioni e deduzioni pensioni familiari, per la formazione del capitale umano dei vostri figli e così via. E queste sono finalità generali dell'ordinamento. Chi pensa, basta che io mi compro il pacchetto di sigarette e me lo detrango, non ha idea di a che cosa serva un sistema fiscale. Quindi, mi perdoni, c'è gente seria, lo dico sempre, come Tabacci, che sa perfettamente che quello che dico è così, eppure lo ripete, perché è molto facile dire alla gente non vi vogliono dare il contrasto all'evasione fiscale. Basta però non raccontare balle. Spesso i politici, anche quelli più seri e onesti, lo dico apposta Tabacci perché è un amico di cui ho molta stima, talvolta tendono a fare un pochino di demagogia, diciamolo chiaro. Eccoci tornati in studio, quest'ultimo 10 minuti della trasmissione è dedicata alla parte che riguarda le imprese. Ecco, Dino Pesole, per lo sviluppo, che si dice sempre se non ci sono sostegni allo sviluppo, più di crescita aggiuntiva, in realtà i tagli poi significano deflazione, recessione, mentre per lo sviluppo bisogna pensare che così il denominatore su cui si calcola il debito pubblico cresce a sua volta e quindi c'è una possibilità maggiore di rendere sostenibili i conti. Ma per le imprese e lo sviluppo, al di là di questa promessa che potrebbe anche essere anche significativa, fino a zero IRAP per la nuova impresa nel sud, in questa manovra, per quello che ci è noto e hai avuto il tempo di approfondire, che cosa c'è per lo sviluppo nella manovra? Questo è il problema fondamentale. Trattandosi di una manovra che punta essenzialmente a ridurre il deficit, dunque è una manovra che opera sulla spesa pubblica, e l'hai detto tu, sulle entrate per quel che riguarda il recupero di evasione, per lo sviluppo prevede ben poco, almeno nella versione che ci è stato dato leggere ieri sera prima che il Consiglio dei Ministri la approvasse. Il problema fondamentale è proprio questo, perché non si discute il fatto che occorra intervenire sulla spesa. Ricordo ad esempio che la spesa corrente primaria, che poi è quella che si calcola al netto degli interessi che noi dobbiamo pagare sul debito pubblico, è aumentata in un anno di 3 punti, sono tanti, dal 2008 al 2009. Per fare un esempio, le spese per beni e servizi delle amministrazioni pubbliche sono aumentate di 5-6 miliardi, quindi è lì che occorre intervenire. Sul fronte dell'intervento fiscale, assolutamente d'accordo sul fatto che occorra intervenire sull'evasione fiscale. Quello che casomai suscita una qualche perplessità è inserire, come dire, prima una previsione di gettito che poi andrà verificata sul campo, perché come sappiamo è ben difficile prevedere quanto si possa recuperare dalla lotta all'evasione. Una linea più prudente sarebbe quella che consentirebbe di portarla a casa nel momento in cui si sono verificate, a quel punto a consuntivo. Però insomma, questa è una prassi che io ho visto ripetersi in molte manovre economiche. Sulla crescita è il punto fondamentale, perché io ricordo, noi già prima della crisi economica crescevamo stabilmente di 1,5 punti meno della media europea, e quest'anno, se andrà bene, chiuderemo con uno 0,8 del PIL. Dunque va bene la correzione per portarci in linea con l'Europa e dare un segnale ai mercati. Va benissimo inserire diciamo un processo virtuoso sul fronte della lotta all'evasione, però qui occorre, e probabilmente sarebbe auspicabile che questo venisse magari inserito in un successivo provvedimento, ad esempio un disegno di legge a carattere strutturale totalmente finalizzato allo sviluppo e alla crescita, che potrebbe affiancare con la nuova disciplina di bilancio questo decreto, quindi farlo approvare rapidamente dalle Camere anche prima dell'estate. Questo sarebbe secondo me un segnale importante per affiancare l'azione di risanamento a un processo appunto virtuoso di sostegno e ripresa della crescita. Grazie a Pesole. Ci ha raggiunto ora Susanna Camusso, segretario confederale della CGIL. La CGIL ieri è stata tra le confederazioni sindacali quella che ha avuto la reazione più netta, anche nei giorni precedenti, ma da ieri ha cambiato marcia dando un giudizio molto negativo della manovra in qualche misura, ma questa è la mia opinione, non chiedo alla Camusso di commentare questo, anche dando il là poi al tono di fondo che fino a quel momento non aveva avuto neanche l'opposizione del PD. Ma comunque chiediamo a Susanna Camusso, ringraziandola per stare con noi, qual è il motivo per cui la CGIL ha questo giudizio così radicale per questa manovra. Prego e grazie. Buongiorno Giannino, buongiorno agli ascoltatori. Noi abbiamo un giudizio molto preoccupato in realtà della manovra, perché da un lato c'è assolutamente chiaro chi pagherà i sacrifici, che è una manovra necessaria, e noi non contestiamo il fatto che ci sia una necessità di fare una manovra, semmai contestiamo che non si è fatto molto nel mezzo precedente. Però ma anche l'ammontare? Camusso, anche l'ammontare? Anche l'ammontare vi sembra adeguato? Cioè voi la fareste comunque così, poi discutendo adesso come farà, su come farla, ma l'ammontare vi sembra giusto? Guardi, io posso dirle una cosa ancora più strong, si potrebbe anche fare più consistente se questo portasse con sé anche degli incentivi alla crescita e delle scelte benissimo, di sviluppo. Benissimo. Il tema non è la quantità, il tema è l'equità, cioè c'è una parte del paese che non contribuirà assolutamente a una stagione invece di sacrifici e purtroppo è la parte del paese che sta meglio, quindi da questo punto di vista c'è proprio un elemento di iniquità. E la seconda grande preoccupazione è che non c'è nessuna scelta che guardi al versante dell'occupazione, che è uno dei grandissimi problemi che abbiamo in questo momento, e non c'è nessun segno che si guardi allo sviluppo, e anche guardando gli altri paesi europei che stanno anch'essi facendo manovre di rientro, chiamiamole così, sono manovre che seguono però scelte di incentivi all'economia e di sostegno all'economia, mentre la sensazione è che questa manovra penalizzerà una parte del paese e determinerà un effetto depressivo sull'economia. Ora, quando Tremonti dice io non posso che avviare, certo per necessità di reperire saldi migliori, ma non posso che avviare una manovra di profonda ristrutturazione del comparto pubblico, perché è quello, spesa pubblica corrente, che ha continuato a crescere con i governi di tutti i colori, di destra e di sinistra, ha continuato a crescere in termini reali oltre che nominali, ha fatto quasi 3 punti in più, anche se si diceva il contrario, e allora io per questo devo incidere lì, perché per il momento parleremo poi, dice Tremonti ieri, di pensioni e sanità, perché lì non interveniamo ancora nei meccanismi strutturali, quindi il sindacato su questo è stato rassicurato, dice io non mi sono messo a dare la stretta, chiudo semplicemente le finestre ma non cambio, non alzo l'età di pensionamento, però dice se io non faccio neanche l'avvio del ridimensionamento del settore pubblico, qua la spesa pubblica corrente continua a crescere. Di fronte a questa impostazione le sembra che sia una menzogna per giustificare tagli così com'è oppure una strada comunque giusta? Lei che dice? Ma io credo che sia giusto ragionare della spesa pubblica. Vorrei discutere sul fatto che la spesa pubblica siano semplicemente le retribuzioni dei lavoratori e blocco contrattuale, perché a parte che poi bisogna vedere come sono fatti i tagli alle regioni per vedere se davvero sulla sanità non si incide, ma questo lo vedremo credo più avanti. E poi abbiamo sentito Errani ha molto preoccupato su questo inizio trasmissione, prego. Certo, infatti, siamo sicuri che l'aumento della spesa pubblica è tutto dovuto semplicemente ai costi del personale? Non c'è un aumento della spesa pubblica che per esempio è determinata dalle consulenze, non c'è un aumento della spesa pubblica che ma infatti lui interviene anche lì, dice, che è determinato dalle esternalizzazioni che hanno aumentato i costi senza migliorare la qualità dei servizi, non c'è un aumento della spesa pubblica che è determinato dal fatto che si continuano a non centralizzare gli acquisti, non c'è un aumento della spesa pubblica che è determinato dalla moltiplicazione delle procedure burocratiche invece che dalla semplificazione. Io non so se queste misure hanno la stessa quantità poi di risorse, però sarebbero un segno che non si scarica tutto sui lavoratori, per esempio, perché è un po' semplice dire semplicemente che riduciamo per alcuni comparti la retribuzione, per altri gliela congeliamo e questo di per sé determina risparmio. In questo che ci sta una profonda iniquità, perché tutti i problemi invece di funzionamento, di efficacia, di produttività della stessa amministrazione pubblica non vengono messi in discussione. Però io adesso qui dobbiamo vedere veramente ciò che esce poi nel decreto, perché nel testo che ci è stato consegnato precedente, per esempio sulle consulenze, il taglio nell'amministrazione centrale e negli enti che dipendono dall'amministrazione centrale era del 50% rispetto alle spese sostenute fino al 2009, quindi voglio dire, è ovvio che si tratta di somme non paragonabili ai miliardi che nei prossimi 3 esercizi si recuperano con lo stop alla concessione degli aumenti contrattualmente stabiliti nello scorso novembre per i dipendenti pubblici, però se fossero davvero poi state approvate quelle misure che Tremonti si è battuto per avere e che gli hanno fatto resistenza per fare, forse un piccolo passo anche nella direzione che diceva lei, Camusso, ci sarebbe. Poi certo bisogna vedere tutto col bilancino, lei dice, perché se comunque resta lavoratori e dipendenti 4 miliardi in meno e loro 400 milioni non va bene, è questo il discorso. Esatto. E poi soprattutto rischiano di non essere manovre che hanno un effetto strutturale di cambiamento della modalità di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, che è il problema fondamentale. Cioè non c'è una logica tutta congiunturale, mi si passi il termine, cioè si fa cassa rapidamente, ma non ne esce nessun profilo riformatore dal punto di vista degli effetti che si avranno nel futuro. Che è lo stesso. Senta, possiamo chiederle una cosa? Possiamo chiederle certo. Una cosa, perché questa è, come dice lei, la radio di Confindustria. Domani ci sarà l'assemblea di Confindustria, vedremo se il tono nei confronti della CGIL e delle altre organizzazioni sindacali sarà un tono che voi giudicate positivo o negativo rispetto alla coesione, che secondo me è un grande valore che di fronte a questa terribile crisi si è saputo manifestare, e anche voi, su tutte le crisi del territorio. La domanda che le faccio è questo: se si dovesse, come ha detto all'inizio, comunque ragionare su ammontare di queste proporzioni, anzi lei ha detto anche maggiori, ma bisogna vedere come, come bisognava colpire in aggiunta chi sta meglio, come ha detto lei all'inizio, con ritoccando l'aliquota più elevata sui redditi, oppure con una patrimoniale di cui abbiamo discusso in questi giorni? Faccia un esempio per capire, dipendesse dalla CGIL, forse? Ecco. A me ne vengono in mente tre: si aumenti la tassazione sulle rendite e la si porti a livello europeo, si faccia una patrimoniale sui grandi patrimoni, si chieda una tassa di solidarietà agli alti redditi. Beh, risposte secche, ma scusi, è l'obiezione, qui seguiamo i mercati. Anche con i mercati che ballano così, se alziamo la tassa, la tassazione su le rendite finanziarie, gli impieghi finanziari, e abbiamo presente qual è l'effetto, scappano ancora di più, quindi forse più la seconda e la terza aspettando la prima. Però lei dice la seconda e la terza avrebbero un effetto positivo, o scapperebbero altri denari di nuovo. Faccio l'esempio che abbiamo fatto ieri: ci sono lavoratori a 1200 euro che da questa manovra ricevono o un taglio o comunque il congelamento della loro retribuzione, e persone che hanno redditi da 1 milione che non mettono neanche 1 euro. Forse c'è qualcosa di ingiusto in tutto ciò, perché se il tema è il paese e il suo futuro, e il tema è il paese e il suo futuro, perché c'è una parte che deve contribuire così pesantemente e una parte che si può limitare a guardare? Bene, allora io ringrazio anche Susanna Camusso che ci ha dato la voce della CGIL, come sentite una voce molto preoccupata. I toni delle altre due confederazioni maggiori, cioè CISL e UIL, poi c'è anche l'UGL e altre confederazioni, non sono così aspri e duri, questo è un giudizio reciso. Ancora appuntamento a domani per giudicare meglio il seguito della manovra, vediamo un po' le norme. Domani poi c'è l'assemblea annuale di Confindustria, faremo un programma a cavallo che commenta lo stato dell'economia, in attesa poi della relazione del presidente Marcegaglia, che sarà anche il primo commento, ci vuole dire, in grande stile, vista l'importanza dell'occasione che l'assemblea annuale di Confindustria ha di solito nelle relazioni imprenditoriali, nel dare il tono del dibattito economico di questo paese. Oltretutto coincide con la metà esatta del mandato del presidente Emma Marcegaglia, quindi io ne ringraziare Susanna Camusso, il presidente Siciliotti, Dino Pesole e Vasco Errani, e tutti voi, anche quelli che non abbiamo potuto mandare in onda. Mi sono preso i 3 minuti che abbondantemente avevo annunciato all'inizio essere stato la tagliola che mi sono un po' stufato di beccare ogni mattina. Per questo chiedo scusa a chi viene dopo, perché è incolpevole come me. Io ringrazio regia Alessandro Chiappini e Fabio Cantadore, redazione Alessandro Marco Tulli, la linea Giornale Radio, appuntamento a domani.